Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Libera ricerca in libero stato. In questo numero Ondivago dà il suo contributo alla ricerca italiana con Matteo Vecchio e Ilaria Barzaghi. La ricerca va finanziata a nostro avviso, ma anche promossa, liberata, comunicata. Ondivago vuole recuperare un piccolo spazio della strada che il nostro paese sta perdendo. Matteo Vecchio è un giovane ricercatore, acuto, spesso caustico. Alcuni scrittori l'hanno cancellato dai loro contatti di Facebook per la loro scarsa attitudine ad un verace confronto. Matteo Vecchio si distingue per la sua visione disincantata del mondo delle lettere, che indaga con caparbietà. Lo abbiamo incontrato nella sua città, Vercelli, e abbiamo condotto una singolare intervista che parte da una caffetteria del centro e si snoda peripatetica per le vie. I temi trattati ruotano attorno alla situazione delle lettere nel nostro paese. Ai microfoni di Ondivago, Matteo Vecchio. Direi che possiamo aspettare quando ci portano la... Io prendo un'acqua e menta. Io prendo un cappuccino, acqua e menta? Sì. Va bene. Senza ghiaccio. Transeat. Cos'è che devo prendere? Ah, sì. Scatola stesi dell'Antonia. Senti, facciamo un discorso spensierato, come sono i nostri discorsi, visto che siamo qui in una caffetteria di Vercelli, davanti a questa piazza che si chiama? Piazza Cavour. È una città più bella di quello che uno si può immaginare in realtà, anche se Vercelli viene ingiustamente tacciata di essere una città crepuscolare, invecchiata, una brutta coppia della Torino gozzaniana, e quindi se Torino è una brutta coppia, insomma, peste Gozzano di Parigi, ecco, in qualche modo Vercelli è una brutta coppia di Torino, insomma, questa nomea, ma insomma io, sai, i piemontesi sono troppo, forse a volte autodistruttori, autoiconoclasti, sì, quindi forse sì, questo non incide molto sulla loro autostima, sì. Ma in realtà è una città deliziosa, certo, però una città di provincia ed è, noi siamo in un ottimo luogo dove parlare di letteratura, sentiamo i rumori della strada, tu osservi il microfono. E quindi è tutto perché molto, li incuriosisce questo molto piccolo strumento. Molto interattivo. In effetti uno degli obiettivi di Ondivago è portare i microfoni fuori dagli studi, dallo studio. En plein air, per così dire. Perché in fondo è ciò che la radio dovrebbe fare. Cioè portarsi fuori, in mezzo alla la realtà nella sua complessità, certo, fenomenologica. Per esempio ora mi sto per soffiare il naso. Anche questo fa parte. Credo che questo comunque appartenga a una certa concezione dell'opera d'arte, no? Fiato perché d'artista, no? In questo è soffiata di naso d'artista. Perché no? O meglio di scrittore, però, di critico, non so. Io trasmetterei su Ondivago alcuni tuoi pensieri sulla situazione della letteratura, della narrativa, della poesia italiana. Visto che tu, sentiamo anche un rumore d'avanguardia che ci coglie. Da russolofono postmoderno. Esatto, un rumore che Russo lo amerebbe, ma integriamo tutto. Vorrei sentire alcuni tuoi pensieri, visto che ti occupi di ricerca e di ricerca letteraria. Alcuni tuoi pensieri sullo stato della letteratura italiana, anche se, come sappiamo, il tema è molto ampio e ad alcuni potrebbe sembrare troppo ampio. Molto ampio, sì. E alcuni potrebbe sembrare pretenzioso, troppo, se vogliamo, generico. Quello che io posso dire è questo, che per letteratura italiana bisogna capire, forse tentare una contestualizzazione, una convenzionale distribuzione e convenzionale periodizzazione degli autori, perché cosa si intende per letteratura italiana contemporanea? Cioè contemporaneo, che so, è Andrea Zanzotto, che è nato nel 21, quindi avrebbe avuto potenzialmente modo di conoscere Ungaretti, Montale, Sibilla Leramo, ma contemporanea è anche Silvia Vallone, che è nata nell'84. Sì. Contemporaneo, ecco, per imitare gli scrittori, per imitare l'analisi degli scrittori e poeti viventi, ecco, non so, il lasso di tempo si amplia, non so, dai primi anni del Novecento agli ultimi nati, che sono nati attorno agli anni 80, Novecento. Ascoltiamo la bellezza di questo cappuccino nella sua semplicità. Si sta zuccherando. Questo rumore così ovattato. Dicevi che non è facile periodizzare. Periodizzare e soprattutto non è facile capire, soprattutto a livello di autori ancora viventi, le loro direzioni letterarie, perché pensiamo soltanto a un Paolo Giordano, per nominarne un autore che ha avuto sì un grande successo, ma con un solo romanzo e con un numero sputo di racconti. Ecco, bisogna sapere anche distinguere, secondo me, tra il caso letterario e il grande autore. Ora, De Zanzotto è un grande autore, Paolo Giordano è un caso letterario. Questa è un'ulteriore distinzione che va al di là degli schemi meramente temporali. Ma secondo me, ecco, ora direzione non possiamo, secondo me, nonostante tutti i tentativi che fa nuovi argomenti, piuttosto che altre riviste, comprendere un fenomeno che è vitale. Noi possiamo comprendere soltanto un fenomeno quando esso si è concluso. Di un autore possiamo comprendere l'opera soltanto, secondo me, e questa è una mia metodologia, che sarà una metodologia sicuramente limitativa, ammetto che sia una modalità limitativa di analisi di un autore, quando egli è morto. Nel momento in cui è morto, noi abbiamo di fronte un grande affresco che spetta a noi studiare, analizzare, guardare dall'interno. Io credo che siano piuttosto sì utili, per carità, interessanti, ma sempre estremamente parziali questi esperimenti che fa nuovi argomenti. Abbiamo stati poc'anzi in biblioteca qui a Vercelli, abbiamo visto l'ultimo numero di Nuovi Argomenti dedicato agli scrittori, questa indagine sull'italianità degli scrittori. Sì, sono indagini interessanti, che secondo me però sono come tutte le indagini parziali e non identificative più di tanto di quello che è il fenomeno complesso della nostra letteratura. Io preferisco, ecco, praticare una piuttosto, forse una certa, un po' una filistea epoché, cioè praticare una sorta di sospensione del giudizio e comunque esprimere un giudizio solitamente piuttosto restio a elogiare o a tirar fango. Secondo me la letteratura oggi è una letteratura estremamente magmatica, che ha molteplici direzioni di percorrimento, e che secondo me non è anche un deficit qualitativo dovuto forse a una certa anche congiuntura storica, una sorta di, diciamo, forse vivere un momento storico in cui non si combatte più, in cui al combattimento, che può essere quella cultura militante che era la cultura degli anni 50, 60, ma anche 40, la cultura anche 30, tutto sommato, la cultura dell'antifascismo, quindi una cultura sotterranea che clandestina. Ecco, a queste culture del combattimento e della militanza si è sostituita una cultura della suefazione a quello che c'è, per cui anche la nostra generazione, la generazione degli Avalloni, del Giordano, ma anche delle Policastro, è una generazione che non sa, secondo me, comprendersi, perché è una generazione che ha perso anche la riflessione di sé come all'interno di un reticolo sociale ben definito. Noi viviamo in un reticolo sociale che ha perso, secondo me, la sua coesione. State ascoltando Ondivago, sulle nostre onde Matteo Vecchio, ricercatore. ondivago.com. E secondo me anche il fatto che siamo una generazione incapace di lottare, perché non ha qualcosa contro cui lottare, perché tutto sembra nuocerle, essere di nocumento, ecco, io credo che sia molto difficile, vista la tragica e singolare congiuntura culturale e politica, dare fine giudizi sulla poesia e sulla letteratura italiana contemporanea. Tra gli autori che tu ritieni più interessanti degli ultimi anni in Italia, di chi parleresti? Se ti intervistasse una grande emittente internazionale che non sa nulla dell'Italia? Io non parlerei di Roberto Saviano, perché quello che sicuramente sarebbe noto, ma parlerei di Giuseppe Catuzzella, che è un giornalista, tutto sommato il suo non è un romanzo, ma un libro d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel nord Italia. Non è banale questo libro, perché è un libro che fa emergere una serie di gravissime deficienze anche di un contesto culturale come il nord Italia, che apparentemente sembra refrattario, impermeabile a fenomeni mafiosi, in realtà è permeato forse ancora più profondamente, perché è sede dell'industria e della finanza, rispetto al sud Italia. Questo, ecco, è il suo Alveare, un testo secondo me di grande livello, anche perché credo che ora il futuro non sia tanto nella narrativa quanto nel libro d'inchiesta. E anche la poesia è piuttosto latitante, perché la poesia non riesce, secondo me, del tutto a... forse già ai tempi, già forse con la temperie ermetica, la poesia ha smesso un ruolo attivo. Poi naturalmente con dei rigurgiti, con dei ritorni, con degli apici, pensiamo ai 50-60, pensiamo al gruppo 63, pensiamo a una serie di poeti impegnati anche oggi, però ha perso secondo me la sua forza di impatto sulla società. Per Paolo Pasolini è stato forse un unicum di poeta che ha saputo, fino a farsi uccidere forse, della stessa società che lui ha, contestato, che ha lacerato, sulla quale ha praticato delle vere e proprie incisioni critiche. Ecco, forse è stato l'unico poeta che ha saputo incidere nella carne, nella polpa della società. Oggi noi non credo che abbiamo un poeta in grado di agire così. Anche i premi Strega che abbiamo, o i premi Campiello, o i premi Viareggio, tutto sommato non sono stati dei grandi poeti, non sono dei grandi scrittori, dei grandi poeti. Quindi vedi nel futuro della letteratura italiana nel genere del libro d'inchiesta? Nel libro d'inchiesta, io credo che il libro d'inchiesta sia un genere che possa coniugare anche una buona dose di narratività. Saviano, no? Ma perché Saviano secondo me è un autore... ha qualche cosa di autocelebrativo, quasi che goda di quello che gli è successo, quasi che si autocelebri pur attraverso la tragedia di quello che gli è accaduto, perché fondamentalmente la sua vita è stata lesionata da questo libro. Ha qualche cosa di che mi induce a una certa repellenza nei suoi confronti, ma naturalmente è una mia personale angolatura di lettura, non è nulla di specifico naturalmente. Ma mi chiedo se questa però stanchezza che c'è nella letteratura italiana... Sì, direi proprio stanchezza. Stanchezza, asfissia. Mancanza di energia. Prima siamo stati alla radio universitaria e questa stanchezza però non sia una situazione storica in cui non siamo gettati, per dirla alla Heidegger, che poi magari ci sono sicuramente degli individui che tentano di uscirne o comunque di distinguersi, però non mi chiedo se non sia una situazione storica che appartiene alla nostra Europa, al nostro vecchio Occidente. Ma certo, la crisi della cultura in Occidente si è verificata fondamentalmente già essenzialmente a metà 800, paradossalmente con l'esperienza dei vari risorgimenti qualcosa si è incrinato. L'apice dell'avventura risorgimentale si è poi in qualche modo trovato una sorta di vuoto sotto di sé, quindi si è giunti ad una certa crollo della stessa cultura europea, per cui io credo che si possa parlare siamo ancora immersi in un romanticismo e soprattutto siamo ancora immersi in una temperie decadente, non riusciamo a uscire, non riusciamo a trovare un nuovo equilibrio classico nel nostro contesto culturale. E questo credo che è il passo prima di trovare un nuovo classicismo che riguardi il tutto la nostra cultura, non solo la cultura letteraria, ma anche la cultura politica, anche la politica, la cultura e la società, sia veramente molto lungo. Forse la nostra società complessa, che quindi, certo, è una società complessa che non riesce a ritrovare questo equilibrio. Ok, e qui abbiamo capito che c'è una stanchezza. Poi dopodiché, a mio avviso, poi tu dirai la tua opinione, ci sono scrittori che fanno di questo periodo di crisi, che possiamo chiamare crisi, comunque difficoltà economica, mm-hmm, ne fanno un motivo per costruire una letteratura di maniera che continua a parlare, certo, di un precariato. Sì, questo che sono costruiscono d'accordo. Rubriche sui giornali che parlano del precariato. Sì, ha un problema essenzialmente di questa asfissia argomentativa, cioè questo rovello argomentativo. Si ha anche un problema di incapacità di ritrovare nella propria esperienza qualcosa che vada oltre l'esperienza stessa, no? Matteo Vecchio è felice possessore, o meglio balia, di un animale domestico strisciante, un pitone albino. Il pitone si chiama Tino e a suo modo contribuisce agli studi del padrone. Ilaria Barzaghi, ricercatrice in storia, è autrice di Milano 1881, Tanto lusso e tanta folla, rappresentazione della modernità e modernizzazione popolare. Agli incarichi didattici Ilaria Barzaghi unisce il suo interesse per la poesia e la performance. In questa puntata ci parla del suo libro, edito da Silvana Editoriale, un libro che indaga il passato ma anche il futuro della sua città, cioè di Milano. Ilaria Barzaghi si occupa di storia contemporanea, di storia dell'arte e della cultura. Milano 1881, tanto lusso e tanta folla, mette insieme il riferimento, diciamo, oggettuale all'avvenimento di cui mi occupo, che è l'esposizione industriale di Milano del 1881, esposizione nazionale, con una citazione tratta da una pubblicazione dell'epoca, un album dedicato all'esposizione, che credo sinteticamente dia un po' la chiave di lettura a posteriori, che io ho tratto anche dal mio lavoro sulle fonti iconografiche, cioè tanto lusso e tanta folla indica che nella percezione dei contemporanei gli aspetti che si volevano mettere maggiormente in evidenza di questo avvenimento così importante da un punto di vista economico, politico e anche per la costruzione, diciamo, dell'identità nazionale, in realtà veniva, diciamo, venduto soprattutto per i suoi aspetti estetici e mondani, come un avvenimento che non poteva essere perso da nessuno, che era rivolto a tutti, a cui era necessario partecipare per essere, diciamo, adesso si direbbe updated, alla moda, aggiornati. In realtà i contenuti erano estremamente seri dal punto di vista della costruzione del progetto economico di industrializzazione del paese, ma c'era anche da tenere a bada il pericolo di spaventare la popolazione con così tante novità, con le novità della modernizzazione, e quindi si cercava di veicolare questo grande evento attraverso contenuti un po' più addomesticati, anche più familiari e più riconoscibili da tutta la popolazione, quindi senza entrare tanto nel merito dei contenuti tecnici, per esempio, che pure erano così importanti per l'industrializzazione del paese. Ma solo in un secondo momento, dopo che si era riusciti ad attrarre i visitatori con questi altri modi. E per esempio nelle immagini c'è un uso che per noi non è neanche sorprendente, benché così precoce, della figura femminile. La figura femminile è praticamente sempre presente nelle illustrazioni delle esposizioni e ha un ruolo davvero come di accompagnatrice, una figura rassicurante che accompagna il visitatore nell'esplorazione delle diverse sezioni, e in questo modo gliele rende più accattivanti, più appetibili e meno spaventose. Sarebbe stato molto difficile attrarre la popolazione alla visita proponendo immediatamente, per esempio, immagini di macchine o di fabbriche, come per noi è molto più normale invece. Per l'epoca assolutamente no, l'Italia era un paese ancora agricolo, la classe dirigente milanese era molto consapevole, molto competente, anche molto motivata da ideali patriottici. State ascoltando Ondivago, sulle nostre onde, Ilaria Barzaghi, ricercatrice. Ondivago.com. Pensava alla modernizzazione dell'Italia, all'industrializzazione, come a una sorta di prosieguo del progetto risorgimentale. Una volta che l'Italia è stata unificata, bisogna fare altro, bisogna impegnarsi tantissimo perché il paese sia all'altezza delle grandi potenze, sia in grado nel giro di pochi anni di entrare a far parte del novero dei grandi paesi, e per questo c'è bisogno dell'industrializzazione. Questo, con molta chiarezza, in sintesi, è il progetto della classe dirigente milanese. Allora, per veicolare questi contenuti a un'ampia popolazione, perché c'era bisogno di un fortissimo, del più ampio consenso possibile, allora si elaborano questi altri meccanismi che io ho definito, diciamo, pure di addomesticazione del messaggio, e che in realtà bisogna dire hanno funzionato. Il tuo libro potrebbe essere una delle letture consigliate per questa celebrazione unitaria. Sì, io penso di sì, e tanto più in questo momento non solo di ripensamento della nostra storia, dei nostri 150 anni di Unità d'Italia, ma anche in prospettiva, pensando a quello che ci aspetta con l'Expo di Milano del 2015. Milano ha una vocazione espositiva che si è sviluppata a partire da una più piccola esposizione del 71 attraverso questa dell'81 e in seguito attraverso l'esposizione internazionale del Sempione del 1906, che in sostanza è l'unica esposizione italiana che sia, diciamo, assimilabile a un'Expo universale, perché un'Expo universale in realtà non l'abbiamo mai avuta. Dopodiché c'è un legame anche, direi, con la Fiera di Milano, che però è un fenomeno che non ha gli stessi contenuti, diciamo, di utopia che avevano queste esposizioni ottocentesche. Però comunque Milano continua un suo discorso di sviluppo attraverso le esposizioni anche con la fiera. A distanza di molti anni abbiamo questa grande occasione del 2015, che peraltro non è stata gestita al meglio finora. Si prospetta un'edizione ridotta comunque rispetto allo slancio iniziale, però ci sarà. Allora, secondo me è molto importante anche mettere in relazione storicamente, non pensare all'Expo del 2015 come una sorta di fenomeno nuovo. Per Milano non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che ritorna a distanza di molti anni. Io credo che anche per l'organizzazione del 2015 possa essere molto utile fare, diciamo, un ragionamento storico su ciò che è venuto prima e su cosa ha significato per il paese e per Milano questa sequenza di esposizioni. Hanno avuto un ruolo estremamente importante anche nella definizione di Milano come capitale morale, nell'assegnazione di un suo ruolo, diciamo, di guida nel paese dal punto di vista economico, ma anche più in generale, guida in ogni senso, come, diciamo, una sorta di punta avanzata di consapevolezza trainante per il paese. Quindi io credo che per tutti, e soprattutto per chi sta organizzando adesso l'Expo del 2015, sarebbe estremamente utile riconsiderare la storia precedente. Ad Ondivago avete ascoltato l'intervista a Matteo Vecchio e Ilaria Barzaghi, ricercatori. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito ondivago.com. Ondivago è ideato e condotto da Max Ponte, in redazione Anna Raffaella Farao, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.